Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'ultima eclettica della settimana, quella in cui vi accoglie Giulio Caperdoni come tutti i giorni, attorno alle ore 19, un'ora. Un'ora da passare insieme, un'ora in cui non vi ho ancora comunicato, nel corso della settimana, di essere interattivi, di essere attivi via mail, come avevo fatto invece la settimana scorsa e anche la settimana precedente, in cui vi avevo chiesto di scrivere a giulio@radiorockfm.com e farmi sapere quelle che sono le vostre sensazioni, i vostri pensieri, quello che vi succede o quello che vorreste che succedesse. Non ho ricevuto tanti mail questa settimana e quindi ho capito che sono io che vi devo spingere a scrivere, perché altrimenti non lo fate. Quindi scrivete a giulio@radiorockfm.com per rendere Eclettica ancora più viva, più vera, più ricca di quello che già è. La più bella storia è quella in cui un giorno, a Delhi, nella più grande calura, io e la mamma passiamo davanti al Sai Baba Mandir, dove era appena finita una cerimonia. La gente usciva dal tempio e fra la folla c'era uno come me, un bell'uomo indiano con i baffi, avvocato, ingegnere, con una grande collana di fiori arancioni appesa al collo, che ci passò accanto mormorando un qualche mantra, ma con un sorriso così sereno, così beato, che la mamma disse: quello sa qualcosa che noi non sappiamo. In qualche modo tutti e due ci dicemmo: ecco il senso del nostro stare in India. E i miei anni seguenti sono stati dedicati a scoprire che cosa sapeva quel tale. Questo era ancora la fine e il mio inizio di Tiziano Terzani. Thank you. My name is Russ Cargill, and I'm head of the EPA. The what? Environmental Protection Agency. Come again? Look, I'm a man on a big TV. Just listen. Thank you. Eclettica quest'oggi si è aperta con The Antlers, il brano The Universe is Going to Catch You. The Antlers, che non è nient'altro che, perlomeno su disco, lo pseudonimo che si è scelto Pete Silberman, anche se poi dal vivo potremmo pensarlo anche come il nome da associare a tutto il gruppo che lo accompagna. Poi, sempre dalla stessa città, ovvero sia da New York City, Food Village con Protective Nourishment, uno di quei brani che hanno colpito, uno di quei brani di cui si parla nei mail che arrivano a giulio@radiorockfm.com. E si prosegue con Cassette Won't Listen, anche in questo caso New York City, tre in sequenza, che città, eh? Cassette Won't Listen in uscita nel mese di marzo con un nuovo album dal titolo Small Time Machine, dal quale vado ad estrarre Paper Float. Time is not right when you feel the final shot strike, when the water begins to rush inside. We slowly sink with no surprise as we sink with the darkened sky, and we barely had time to set it right. The storm is wrecking our paper float, so we tell our favorite joke. Crack a smile and then our hands let go. We crack a smile and then our hands let go. We drift alone on the soles of a tiny drift alone. violenti. Quando arrivavano gli altri, mettevano i bastoni per terra e si facevano picchiare. Però, che esempio morale. Ma vedi, non si insegna questo, non se ne parla. Le scuole non fanno che la storia degli eroi e dei conquistatori. Alessandro Magno. Magno perché ha massacrato migliaia di persone nell'Asia centrale? Forse era anche uno simpatico ai suoi tempi, giovane, conquista il mondo. Ma conquistare cosa vuol dire? Vuol dire uccidere, prendere la roba degli altri. Tutto questo dovrebbe essere rimesso in discussione. L'educazione dovrebbe cominciare con insegnare il valore della non violenza, che ha a che fare poi con tutto, con l'essere vegetariani, con il rispetto del mondo, col pensare che questa terra non te l'ha data a te, che è di tutti, e tu non puoi impunemente metterti a tagliare e a fare buchi. Il guaio è, secondo me, che tutto il sistema è fatto in modo che l'uomo, senza neppure accorgersene, comincia sin da bambino a entrare in una mentalità che gli impedisce di pensare qualsiasi altra cosa. Finisce che non c'è nemmeno più bisogno della dittatura ormai, perché la dittatura è quella della scuola, della televisione, di quello che ti insegnano. Spegni la televisione e guadagni la libertà. Libertà. Non ce n'è più. Io lo continuo a ripetere. Non siamo mai stati così poco liberi, pur nella apparente enorme libertà di comprare, di scopare, di scegliere fra i vari dentifrici, fra le 40.000 automobili, fra i telefonini che fanno anche la fotografia. Non c'è più libertà di essere chi sei, perché tutto è già previsto, tutto è già incanalato, e uscirne non è facile, crea conflitti. Quanta gente viene rigettata dal sistema, viene emarginata perché non rientra nel modello. Facesse invece delle altre cose, ma non c'è altro. C'è solo una spinta verso il mercato. Questo era ancora La fine e il mio inizio di Tiziano Terzani. Springfield has become... Woo! Springfield! The most polluted city in the history of the planet. Drama queen! To prevent your poisons from spreading, your government has sealed you all within this dome. Believe me, it's the last thing we wanted to do. I do own the company that makes the dome, but that's beside the point. What are you telling us? We're trapped like rats? No, rats can't be trapped this easily. You're trapped like carrots.